24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In questa edizione parleremo dello scandalo intercettazioni in Gran Bretagna, dell'avvertimento del Fondo Monetario all'Eurozona e tra l'altro parleremo anche di un'ipotesi di riforma della pesca in Europa. Cominciamo allora con lo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna. Dopo le dimissioni dei vertici di Scotland Yard, dopo l'arresto e il rilascio dell'ex direttore di News of the World, è arrivato il giorno dell'interrogatorio di Rupert Murdoch e del figlio in Parlamento. Un interrogatorio molto teso, interrotto per qualche minuto da un'aggressione. «Questo è il momento più umiliante della mia vita», ha detto il magnate, che secondo rumors ricorrenti potrebbe essere vicino all'addio, ma lui nega. I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life. Questo è il giorno più umiliante della mia vita. Sono le 14:39 a Londra quando Rupert Murdoch interrompe la deposizione del figlio con una frase che suona piena di rabbia e insieme trasmette il senso della resa. D'altra parte, il tycoon dei media nato 80 anni fa in Australia non si ritiene responsabile dello scandalo delle intercettazioni che ha travolto il suo gruppo inglese News International. Alla domanda della Commissione Culture, Media e Sport del Parlamento britannico se accetta o no la responsabilità ultima della vicenda, il magnate ha risposto no. Scioccato, sconvolto e pieno di vergogna, si è detto invece nell'apprendere 2 settimane fa che il cellulare di Millie Dowler, la ragazzina uccisa da un maniaco, era stato intercettato. Poi però il figlio James ha confermato che News Corporation pagò alcune delle spese legali del detective protagonista dell'operazione. Il caso della piccola Millie è solo la punta dell'iceberg, le vittime degli ascolti illegali sarebbero migliaia. Gli investigatori hanno raccolto 11.000 pagine di indizi e prove, in come finora emersi sono oltre 4.000, 5.000 i telefoni fissi, 4.000 i cellulari, attori, calciatori, giornalisti, politici, membri della famiglia reale, ma anche tra quelli spiati i familiari delle vittime del terrorismo e quelle dei caduti in guerra in Afghanistan ed Iraq. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. E nell'audizione Murdoch ha fatto riferimento anche al premier italiano Silvio Berlusconi, definendolo un concorrente difficile. E siamo alla crisi economica, anche il Fondo Monetario Internazionale lancia un avvertimento. La crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona, dice, mette a rischio sia la ripresa europea che quella globale. Nel rapporto 2011 sull'economia dell'Eurozona, l'FMI sottolinea come il sistema bancario europeo continui a mostrare debolezze, con gli istituti esposti in maniera significativa ai rischi sul fronte del debito sovrano. I paesi indicati sono Grecia, Irlanda e Portogallo. Il monito dell'FMI arriva nel giorno in cui le borse europee cercano di recuperare il terreno perso, per tutte chiusura in positivo. Trascinate dalle banche, le borse europee rimbalzano in attesa del vertice UE di giovedì e grazie all'impennata dei cantieri americani. Parigi e Francoforte ieri hanno guadagnato l'1,2%, mentre Piazza Affari, migliore d'Europa, ha visto l'Auchère a più 1,71% e il FTSE MIB a più 1,92%. A Milano, come detto, finanziaria alla riscossa, la migliore è stata infatti Unicredit, più 4,6%, seguita da Intesa San Paolo, più 4,3% e Monte dei Paschi, più 3,3%. Realizzi invece su Pirelli, meno 4,9%, che ha pagato un report negativo di Bank of America, in cui la casa d'affari americana definisce il titolo Michelin più conveniente rispetto a quello della Bicocca. Non si arresta infine l'emorragia di Fonsai, che nonostante la chiusura con successo del maxi aumento di capitale, ieri ha chiuso in ribasso dell'1,6%. Ceo Condiana da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. In Italia ora il dibattito politico si infiamma intorno al decreto legge sull'emergenza rifiuti di Napoli. Solo un mese fa dall'Europa era arrivato un nuovo monito al nostro paese che rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie, aveva detto il commissario all'ambiente Janez Potocnik, perché le autorità italiane non hanno ancora fatto quanto necessario per trovare una soluzione adeguata, aveva detto. E mentre a Napoli riesplode la protesta della gente sul decreto legge, la maggioranza si divide, con la Lega che si oppone al trasferimento dell'immondizia fuori dalla Campania. Da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. La Lega chiede che i rifiuti possano essere accolti solo e dopo il nulla osta della regione ospitante, mentre i parlamentari del P PDL protestano e hanno minacciato di votare contro. Il governo è comunque andato sotto sul rinvio in commissione e adesso ogni parlamentare leghista sta prendendo la parola nell'aula di Montecitorio e da poco invece sta prendendo la parola anche l'opposizione. Dal PDL smentiscono il caos nella maggioranza, sentiamo Maurizio Lupi. La Lega aveva già tenuto un atteggiamento negativo in Consiglio dei Ministri, quello che è cambiato ci sembra sia l'atteggiamento dell'opposizione, nel senso che il Partito Democratico, l'UDC e Futuro Libertà avevano detto che avrebbero appoggiato il decreto in aula. Ma per l'opposizione la maggioranza non c'è più, Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. È una maggioranza che non c'è più. Il governo fa un decreto e il Parlamento non gliel'approva. Al di là del merito c'è la sostanza di un governo che non ha la sua maggioranza e che rimane al governo e i parlamentari rimangono al loro posto solo per la poltrona. Andiamo ora in Medio Oriente, dove uno yacht francese di attivisti filo-palestinesi è stato bloccato in alto mare dalla marina militare israeliana. L'imbarcazione Al-Karama, che intendeva forzare il blocco navale imposto da Israele alla striscia di Gaza, è stata trainata fino al porto di Ashdod. Le autorità rispettino i diritti dei nostri connazionali e sia consentito loro di rientrare velocemente in Francia, è l'appello del portavoce del ministro degli esteri francese. È un attacco contro la solidarietà, una violazione del diritto internazionale, il commento invece via Twitter della coalizione francese della Freedom Flottiglia 2. Ripopolare il mare perché ci sono troppi pescatori per troppo poco pesce. Lancia questo allarme Bruxelles, che ha presentato una riforma per ridurre la flotta europea. Entro il 2015, secondo la Commissione, dovrebbe essere introdotto un sistema di scambio delle quote di pesca, perché tre quarti delle risorse ittiche, secondo analisi europee, sarebbero eccessivamente sfruttate. Ci impegneremo a ricostituire le risorse ittiche entro il 2015, così da prelevare quantità di pesce da non mettere in pericolo la continuità della specie, ha spiegato il commissario Maria Damanaki. Non mancano le perplessità dei movimenti ambientalisti. Si tratta di una riforma che riguarderebbe soprattutto Spagna, Gran Bretagna, Italia, Francia e Paesi Bassi. Intorno all'industria della pesca ruotano infatti complessivamente 40.000 posti di lavoro. E ora l'ampia pagina sportiva, a cominciare dal ciclismo col Tour de France che oggi arriva in Italia a Pinerolo. Ieri sul traguardo di Gap, vittoria del norvegese Hustvedt, ma i grandi protagonisti sono stati Evans e Contador. Mentre il campione del mondo Thor Hushovd andava a conquistare la sua seconda vittoria di tappa battendo il connazionale Edvard Boasson-Hagen, dietro sul Col de Mans si scatenava la bagarre. Un colle innocuo posto a 10 km dal traguardo che diventa impossibile per la pioggia ed approfittarne è lui, il grande malato, Alberto Contador, che alla fine fa saltare il banco. Solo Evans e Samuel Sanchez riescono a tenere il passo del madrileno mentre dietro si staccano prima Basso e poi Andy Schleck. Al traguardo Evans porta via 3 secondi a Contador attaccando in discesa. Vauclair, Koenig e Frank Schleck pagano 21 secondi a Evans. Basso ne perde addirittura 53 mentre Andy Schleck 1,07. Basso, che in salita ha rotto la sella, paga oltremodo la discesa e dovrà stare attento al Col di Tramartino. Soprattutto dovrà stare attento ancora una volta alla discesa nella generale. Thomas Vauclair continua la sua spettacolare difesa della maglia gialla. Pieragusso Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Gap. Ancora sport, giornata di medaglie per lo sport azzurro tra nuoto e scherma. Gli europei di scherma Sheffield si sono chiusi con l'oro della squadra di sciabola maschile che in finale ha battuto la Germania. Dario Ricci ha intervistato Giampiero Pastore, uno dei moschettieri azzurri. Sì, è stato un europeo sicuramente, un gran bel europeo per tutta la scherma italiana. Noi ci tenevamo a non essere da meno dei nostri compagni e quindi oggi ci siamo conquistati questo campionato europeo. C'era anche da dare una risposta alle ragazze che di medaglie ne hanno vinte parecchie, no? Quindi... Sì, ma non ci mettiamo in competizione perché sono nettamente superiori. Cerchiamo di fare il nostro e di farci valere volta per volta, però non c'è assolutamente nessun di rivalità con le ragazze. Ecco, siamo contentissimi quando vincono e loro sono contentissimi altrettanto quando vinciamo noi. E dai mondiali di nuoto di Shanghai sono arrivate le medaglie delle donne, l'argento nella 10 km di fondo di Martina Grimaldi e il bronzo di Tania Cagnotto nel trampolino da un metro. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.